fiera può essere un luogo di squilibrio, di vertigine e di conferma. La fiera è come la vita, devi stare attento anche ai semafori, perché, e anche perché non esiste il semaforo rosso, non esistono i turni, ti scontri con tutto. Allora è interessante, è un'avventura, un'esperienza. E la fiera, siccome poggia sull'economia, per questo dà statuto, come dico io, di realtà al fantasma dell'opera, rende reale e non solo, spesso rende comodo anche la vita dell'artista, del gallerista, del critico, di tutti, quindi produce una economia ecologica. Non esistono più fiere di tendenza, come non esistono più gallerie di tendenza, perché questo esisteva quando esistevano ancora i gruppi, le avanguardie. La transavanguardia è stata l'ultima avanguardia possibile, come diceva Argan. Dopo, gli artisti procedono in fila indiana, singolarmente, nella postmodernità, per solitudine d'ambiente, perché per caduta di valori di solidarietà, mancanza di scambio. Diciamo che, come per le gallerie, così per i collezionisti, così anche una fiera rappresenta ormai una complessità.